Quindi questa è una dimostrazione di quello che io dico sempre, che delle nazionali e delle coppe europee non gliene frega niente. È vero. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. È stato strano vedere giocare per così tanti mesi le partite a porte chiuse, si sente tutto, non si percepisce, non c'è quell'emozione che hai quando ci sono tante persone, e ci auguriamo che al più presto possano tornare i tifosi. Sappiamo che ovviamente migliorare la stagione scorsa sarà durissima, ma cercheremo ovviamente di sempre mantenere l'Atalanta a alti livelli, cercheremo sempre di portare l'Atalanta in Europa. Faccio tutto per arrivare a obiettivi, bisogna lavorare, bisogna fare sacrificio, ma secondo me questi ultimi 6 mesi che abbiamo fatto l'anno stagione scorso, tutti hanno capito cosa serve per arrivare a obiettivi. E poi non si deve dimenticare che non abbiamo vinto niente. In mio testa, i miei obiettivi è sempre vincere qualcosa, e questi sono i miei obiettivi. Entro in questa stagione di vincere, semplicemente. La cosa che mi piaceva di più era che era una nazionale intercambiabile, nel senso che sono cambiati tanti giocatori in ogni ruolo, e veramente hanno sempre fatto grandi cose, giocato con entusiasmo, con un'identità precisa. Avrete riconosciuti probabilmente Chiellini, Papu Gomez, Ibrahimovic, ancora Chiellini, insomma voci sparse dalla terra di mezzo equidistanti tra la fine della stagione scorsa e l'inizio della prossima. Domani nascono i calendari su Sky. E ciao Riccardo Trevisani. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao amico mio, ciao Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti. Radio Twitter mi va. Perché Radio Tweet? Il tuo primo pensiero? Ma il Radio Tweet è perché inizia settembre e lo voglio dedicare alla Nazionale, sì. Che quest'anno curiosamente comincia la stagione prima dei club. Sappiamo che insomma l'anno scorso è stato iniziato un... È iniziato con un... Adesso compri un telefono però, Pier. Adesso glielo compriamo al volo, uno di quelli, usa e getta. No Riccardo, piuttosto volevo sottolineare la amicizia tra te e Pierluigi Pardo, perché ieri ha dedicato su Radio Tweet, si era anche sentito incredibilmente, a Ibrahimovic e Immobile, no? Due I di conferma, di riscrittura dei contratti eccetera. Ho sentito il tuo pezzo su Sky Sport, anche tu su Immobile, snocciolando tutti i numeri, peraltro con Immobile che più che un giocatore a questo punto è un simbolo, un'icona della storia laziale. Ma è incredibile, io guardavo, perché normalmente non facciamo i pezzi, no, ma gli studi, e invece ieri ho detto facciamo un pezzo su Immobile che ha rinnovato il contratto. Allora mi sono messo a studiare un po' di numeri. Ragazzi, ma mette paura. Se io pensavo che Silvio Viola non venisse mai nominato, no? Fosse così, un'icona, una cosa finta a cui non si arriva mai, perché bravo, non ci arriva Baggio, non ci arriva Totti per la Serie A e non ci arriva nessuno neanche per la Lazio. In realtà, secondo me, e lo faccio qui questo pronostico, mi prendo gli improperi, secondo me lo supera l'anno prossimo, perché con 35 gol con la Lazio lo supera. Ora, possiamo fare tranquillamente 27-28 gol in campionato e 7 in Champions, tranquillamente proprio. Quindi l'anno scorso ha fatto un gol a partita, perché non dovrebbe farlo pure l'anno prossimo? E poi c'è la Coppa Italia volendo, quindi uno o due golletti pure in Coppa Italia li può fare. 35 gol dal superare Silvio Piola a meno 2 da Beppe Signori, che vuol dire che praticamente vabbè, ottobre ha superato Beppe Signori. Sì, ma poi Piola là in alto, hai ragione tu, è una di quelle entità astratte che uno dice mai ci arriverà. Senti, ma che squadra intuisci qui dalla terra di mezzo? Dove ci troviamo ora? Per la Lazio, dici? Per la Lazio, ma in generale, cioè che disegno ti sei? Ti fai? Mi sembra che un campionato dove si giocherà ogni tre giorni sia un campionato che lascia veramente possibilità differenti, perché con tanti turni settimanali e con le coppe, quest'anno vivremo una stagione tanto tanto strana, più strana di quella appena passata, ma con l'esperienza fatta di quella appena passata. Quindi ci sono delle squadre, quelle che sono adattate meglio, che secondo me prenderanno spunto da questo e riusciranno a trarne anche dei grandi benefici. Io vedo probabilmente il campionato più equilibrato degli ultimi anni, anche perché tante squadre mi sta piacendo come si rinforzano. Faccio un esempio su tutti, visto che c'era Papu Gomez nel collage, e parlo di Miranchuk. Miranchuk è un altro di quei giocatori alla Malinowski, alla Muriel, che va ad implementarla tanto la rosa dell'Atalanta, tanto alla Ilicic. Bravissimo, perché è quel tipo di giocatore un po' più attaccante, un po' meno fantasista, ma comunque forte. È un altro che quando Gasperini va a mettere mano alla squadra, gli migliora la squadra. E quindi Atalanta piano piano sta arrivando a un livello altissimo. L'Inter con Hakimi e col finale di stagione che ha fatto non la puoi non considerare. La Lazio ha già lottato, anche se quest'anno avrà la Champions League, e non dimentichiamo che a livello di punti la squadra che ha fatto meglio dopo l'Atalanta al giro di ora è stato il Milan. Ma poi diciamo Milan... la verità, Ricky, è per la prima volta intanto è tornato Capocciò. Ciao. A Capocciò? Sì, no, ma sono tornato un po', ma sono veramente disperato. Sono disperato perché poi sono in delle località bellissime, ma non è che sta in mezzo al mare, capito? È da mezz'ora con gli assistenti di studio che cerchiamo la posizione tipo Pieraccioni nel ciclone. Vabbè, comunque, il radio tweet era sul nazionale. Sì, inizio di settembre, mi sembrava molto poetico. Sì, che io spero che ci sia lo stesso spirito che si è visto l'anno scorso. Cioè Mancini, io non so se vincerà con la nazionale, non so quello che faremo agli europei, però intanto è già riuscito a riportare entusiasmo, energia, l'idea che questo sia realmente un gruppo aperto, non soltanto a parole. Lui è stato uno che ha fatto delle scelte anche coraggiose all'inizio, dalla fiducia a Zaniolo quando ancora praticamente non si era visto. Insomma, è secondo me un segnale molto forte per i giovani, che secondo me ha fatto bene, sta facendo bene al movimento calcistico italiano. Poi i risultati ovviamente li vedremo, speriamo fra un anno, speriamo che si giochi l'Europeo del 2021, e possono dipendere ovviamente da un palo, da una traversa, da un calcio di rigore, però l'impatto secondo me positivo sull'umore, sull'energia della meglio gioventù del calcio italiano mi sembra che ci sia stato, e quindi l'augurio è che prosegua. Ma poi segue la filosofia di Marcello Lippi, nazionale aperta a tutti quelli che giocano a calcio dai 9 ai 99 anni, perché sta convocando davvero gente che non ha la squadra, Ciccio Caputo, bastoni dall'altra parte sull'altro fronte. Non voglio essere troppo malizioso, però spero che gli sia passato, che gli passerà prima o poi quella delusione per la storia di Lippi. Ho saputo dai giornali di Lippi, direttore tecnico della Sportiva, mi sembra che quella storia lì sia un po' sullo sfondo. Ti ricordi, Ricky? È stato accostato Mancini anche alla Juventus qualche tempo fa, pista piuttosto fantasiosa, però spero che quella roba lì gli sia passata, conoscendo un po' Mancini, che insomma queste cose non le deve sapere. Il carattere è forte, chiedere al presidente dell'AIA per ulteriori conferme. Diciamo che quello che però sosteneva Pierre è lo sposo in pieno, cioè si è vista un'Italia finalmente bella, giovane, fresca, da tifare volentieri, senza retropensieri, perché onestamente io vi dico la verità, non è che mi sono tanto ripreso ancora da Italia-Svezia, e quindi non solo tu. No, sono serio, ma sono veramente molto serio. Una cosa che è una delle grandi delusioni della vita, proprio mettendoci dentro anche il non sport, perché non pensavo mai che sarebbe successo quello che ho visto. E quindi la nazionale bella e allegra mi piace molto. E mi piace molto quello che diceva Pierluigi, che ha regalato proprio una ventata a tutti nel nostro calcio di avere una speranza. E ieri, quando vedevo Ciccio Caputo all'allenamento, pensavo: ma se Ciccio Caputo fosse Totò Schillaci, cioè se fosse quello che viene da due anni che ha fatto 22-23 gol, ce lo portiamo all'europeo e magari ti fa i minuti finali e te la decide, perché secondo me quel concetto dei 9-90 anni è la verità, cioè ci deve andare un gruppo solido, il gruppo che fa squadra, il gruppo di quelli bravi, il gruppo di quelli che sono meritato, ma il Ciccio Caputo, uno per ruolo, secondo me, molto Toschi Laci o chi vuoi tu, sta benissimo in nazionale, è proprio l'essenza della nazionale. Guarda, ti facevo l'esempio di Schillaci proprio l'altro giorno, perché e secondo me sugli attaccanti è ancora più valido come ragionamento, certo, perché sappiamo che gli attaccanti hanno una, diciamo, un'moralità che non è quella degli altri ruoli. Negli altri ruoli probabilmente le gerarchie sono più precise, sì, la condizione fisica sicuramente ti può aiutare, però insomma le qualità alla fine fanno la differenza. Negli attaccanti una delle qualità è anche il momento, il sentiment, direbbe Barisoni, no? Cioè il momento in cui ti trovi, in cui il pallone per 2 centimetri entra o per 2 centimetri esce. Cioè Immobile quest'anno. Immobile ce l'ha sempre. Immobile è un'eccezione, perché c'era sempre il sentiment. Però ecco, se Ciccio Caputo dovesse arrivare, come dicevo l'altro giorno, ad aprile, maggio, in una condizione molto buona, magari diventa il quinto attaccante e poi magari si trova a essere quello più in forma e poi magari si trova a fare proprio come Schillaci nel 90. Stiamo giocando con la fantasia, però è bello che ci sia spazio per lui, perché il ragionamento 9-90 anni è un bellissimo ragionamento che spesso è stato fatto a parole. Non parlo di Lippi ovviamente, parlo in generale della storia della nazionale, cioè ci sono stati ma lui è una cosa che Lippi la dice sempre, cioè il mio concetto era quello. Lippi la dice sicuramente, ma poi esistono anche altre logiche, esistono le gerarchie, esiste anche la gratitudine, per esempio secondo me Lippi nel 2010, ma è difficile dargli torto, ha avuto anche una sorta di gratitudine per alcuni giocatori di 4 anni prima, ma ci sta, voglio dire, fa parte della vita. Però Mancini secondo me in un momento come questo, che era di difficoltà del calcio italiano, proprio psicologica, di umore, di stato d'animo, in cui sembrava che non ci fosse più l'alba, e invece questa cosa l'ha applicata. Beh, sai, quella roba lì della gratitudine è normale, umana, fisiologica, certo. Tanto che io credo che insomma quando tu arrivi... Ce l'ha avuta Berzot nell'86, io... per andare un po' più indietro. Bravo. E non ce l'ha chi? La Germania, che manda a casa Klose, che manda a casa quelli forti, 30 anni, e continua a vincere Champions League, continua a presentarsi nelle finali di tutti gli appuntamenti. Riccardo, io lo dico col massimo rispetto. Contrario. Tu vorresti essere tedesco, lo dico col massimo rispetto per una civiltà e una cultura che è interessante e che per certi versi mi piace pure. E noi siamo così. E quindi voglio dire, le nazionali... Sì, però vorrei restare così prendendo il bello degli altri. Il meglio, certo. Sì. Capito? Non è che siccome siamo belli da italiani con i nostri difetti, le nostre macchine di seconda fila e tutto il resto, dobbiamo essere pure uguali su tutto. Seconda fila. Voglio dire lo vedi che succede dappertutto. Cioè in Germania, nei club e nella nazionale. Hanno fatto un misto frutta eccezionale. Cioè è arrivato Löw con Guardiola al Bayern Monaco, l'insieme del calcio tedesco è una roba spettacolare, stati pieni, adesso a parte il Covid, incassi, soldi, il Bayern Monaco costa 7.000 lire, cioè arriva in finale di Champions League vincendo tutte le partite, vince la finale di Champions e ha vinto 24 gare su 25 nel 2020. Alfonso Davis in MLS, Pierluigi, porca miseria, ma quando mai qua una squadra top prende uno in MLS, lo paga 20 milioni e lo mette di titolare al posto di uno che ha pagato 80? Ma guarda, questo è un modello. L'investimento sul trading center è un modello. Il Bayern è un modello, cioè prova a fare, quindi chapeau. C'è da dire, come sottolineavamo l'altro giorno con Paolo Condò, che veramente in Germania il Bayern gode di una sorta di immunità da tutto, per cui può andarsi a prendere, e non è uno scandalo, dei parametri zero clamorosi dai club rivali, ecco, cioè c'è una sorta di dominio che è un dominio assoluto. Ma sul movimento calcistico tedesco ti do perfettamente ragione, coraggio, gioventù, però è quello che sta cercando di fare Mancini, quindi io penso che il modello sia quello e noi ci stiamo provando. Per mentalità non è semplicissimo replicarlo. Torniamo un attimo al campionato, ragazzi, perché Riccardo tu hai detto sarà un campionato ancora più incerto di quello dell'anno scorso, sottintendendo che la sensazione di tutti il prossimo campionato sia il primo dopo molti anni a non avere un padrone chiaro, perché io continuo a pensare che l'Inter sia al passo della Juventus. La Juventus sta provando, leggendo in controluce quello che sta succedendo sul mercato, sta provando a risparmiare qualcosa o forse più di qualcosa da, sotto ogni fronte, preparandosi per l'ultimo ballo, l'ultima Ronaldeide. L'Inter sta assecondando Conte, che va cercando muscoli, leadership, tutto pronto subito, e poi arrivano le altre. Beh, il piano secondo me è abbastanza chiaro, e quello che vediamo è una squadra che secondo me resta comunque la favorita. Poi dipenderà dall'impatto che avrà Pirlo, se riuscirà a entrare nella testa dei giocatori, al di là delle dichiarazioni ufficiali, più di quanto non sia riuscito a Sarri. Io credo che complessivamente la Juventus abbia un valore eccezionale, perché i 9 scudetti, per quanto la fame possa passare, sono comunque un valore eccezionale. L'abitudine alla vittoria è una cosa che non si compra. Noi guardiamo come antagonista numero uno l'Inter, credo che siamo tutti d'accordo che l'Inter sia la prima antagonista della Juventus. L'Inter, che è forte, ha giocato col Siviglia una partita dove secondo me, se fai una somma della top 11 delle due squadre, ne prendi 8 dell'Inter e 3 del Siviglia, e ha giocato meno bene, anche se poi poteva vincere eccetera eccetera. Ha giocato Juventus-Inter 2 volte in una stagione, è stata presa a pallate, andata e ritorno, e l'Inter secondo me non è così meno forte della Juventus. 83-82 è lì a dimostrarlo a fine campionato, però nelle due gare dirette non c'è stata partita, perché l'Inter oggi non è pronta al grande appuntamento. Quindi io devo considerare per forza la Juventus favorita comunque a inizio campionato, poi magari non vince, però ma tu mettigli Kanté e Vidal al centrocampo, poi vediamo come, certo, aggiungendo quei due, no? Che certo, leadership, certo, muscoli, giocatori pronti subito, Pier. Certo. Guarda, io penso questo, che il tempo è una risorsa che non si può comprare, e il tempo è esattamente quello al quale faceva riferimento Riccardo, cioè l'abitudine alla vittoria, il fatto che certe consapevolezze vengano date col tempo, non le recuperi subito, questa è una realtà, ed è la differenza che c'è stata quest'anno secondo me tra Juve e Inter, tant'è vero che l'Inter poi secondo me comunque dei rimpianti ce li ha. La squadra che ha più rimpianti era Lazio, ma sono rimpianti dovuti al fatto che il campionato si sia fermato, ecco, nel momento in cui era secondo me nettamente la più forte, e in quel momento lì il campionato si è fermato, quindi sì, qualche rimpianto ce lo può avere, si può discutere sulla preparazione, sai che c'è stata qualche polemica su, anche interna, su come ci si è preparati per il post lockdown, però insomma secondo me se si fosse andare avanti la Lazio avrebbe avuto buone possibilità, no? Quindi ti dico, la Juve secondo me è giusto considerarla davanti, bisogna vedere come finisce il mercato, però è vero che forse mai come prima in questi anni l'antagonista sembra avere proprio tutti i pezzetti a posto. Senti, ma il fantacalcio, se sei la Juve prendi Dzeko o Suarez? Io prenderei Suarez. Io Dzeko anch'io. Vabbè, è normale, ci sono tre al telefono, due capiscono di calcio, è chiaro. No, in realtà credo che la fame non di spalle e di tempo di Suarez sia in assoluto una fame superiore per il gol rispetto a quella che ha avuto Dzeko, ma il Dzeko degli ultimi due anni rispetto al Suarez tutti i due anni secondo me è stato nettamente migliore. Ho visto Suarez molto in calo, non ho visto Dzeko in calo per niente, calcolando anche chi gli passa la palla a Dzeko e chi gli passa la palla a Suarez. Ma a proposito di Roma, Riccardo, prima citavamo il comune amico di tutti quanti, Paolo Condò, che dalla sua nuova casa di Repubblica intervista oggi Totti, no? Chiara la voglia di tornare di Francesco Totti, come la valuti questa idea? Dice a me? Sì. Io non ho ancora capito bene che succede a Roma, quindi non so dirti se poi per il progetto che ha la Roma Totti possa essere la persona indicata o meno. La Roma in questo momento ha cambiato proprietà e non ha toccato quasi nulla, no, di quello che era, ma ha cambiato lo status quo, e quindi oggi si naviga un po' a vista. Credo che per, diciamo, il bene dei tifosi potrebbe essere un'ottima idea. Bisogna vedere se poi è un bene anche sul campo, perché la Roma in questo momento, proprio per i discorsi che facevamo prima sul miglioramento delle altre squadre, la Roma in questo momento parte settima, per come la vedo io. Settima. Ed è una squadra che ha fatto seconda, terza, semifinale di Champions per 5 anni attaccati, questi risultati, fino a 2 anni e mezzo fa. sembrano passati 15 anni. Mm. E quindi secondo me vanno fatte tante riflessioni a Roma dietro, e sulla Roma per evitare di creare problemi. Sette mi sembra tanto. Tante cose. Devo dire, l'intervista di oggi secondo me è interessante, non dico sorprendente, però insomma è evidente la voglia di Totti di riaprire, di riaffermare la sua identità assoluta, la sua voglia di lavorare con questa società, anche i suoi primi exit poll positivi nei confronti della nuova dirigenza. Insomma, non so quanto ci sia di vero e quanto ci sia di auspicio, però mi pare chiaro. Ma non fosse la vecchia per farlo contento, Pierluigi. Sì, sicuramente esiste un cordone che non si è mai annodato con la vecchia dirigenza, e quindi il sollievo perché quell'esperienza ormai è finita. Però insomma, sono parole abbastanza chiare, cioè abbastanza evidente il fatto che non vede l'ora di essere richiamato a corte, dai. L'ora, quindi, e sulla condizione, la Roma secondo me in termini di talento non è male. Infatti, anche secondo me, non so se è settima. Non so, Riccardo la vede settima. No, io non la vedo settima, però può arrivare settima. Cioè io la vedo in una un'area fra il quarto e il settimo. Non so dirti in questo momento. Il quarto? Beh, insomma, bisogna vedere che succede. Riccardo, bisogna vedere che succede. Pure la Lazio un anno fa non pensavi che potesse lottare per lo scudetto, probabilmente invece ci ha lottato. Cioè ci sono da qui alla fine del mercato mille cose che possono succedere. Bene, non la vedo certamente settima. Diciamo che Juventus e Inter fanno storia a parte, giusto? Quindi sì. Si parte dal terzo posto. L'Atalanta e la Lazio hanno fatto 8 punti in più della Roma e non mi sembrano peggiorate. E il Milan e il Napoli hanno fatto meno della Roma e mi sembrano migliorate. Sì. No, la Roma perde gol perché hanno mezza squadra, probabilmente come fa a migliorare? Cioè, dove migliora? Come migliora? Non mi devi migliorare col mercato. Cioè, da qui al 5 no, perché tra 18. Sì, ma il 18 settembre, tra 18 giorni comincia il campionato, non c'è. Sì, cioè. No, è chiaro che Dzeko comunque fa tutta la differenza del mondo, però comunque riparti riparti comunque da Zaniolo che ce l'hai lì che ha perso la stagione, riparti da Pellegrini che ce l'hai lì ed è un secondo me riparti da tanto talento. Mkhitaryan confermato, adesso cerca un centrale, dietro devi sistemare molto le cose, questo lo sono molte cose che vanno sistemate, non c'è discussione. Sull'anno scorso non si discute, nel senso che a cominciare ad entrare in campo con un portiere che può aiutare nel calcio, sì, che può essere tendenzialmente utile, aiuta un portiere tendenzialmente aiuta. Ragazzi, ultimo giro di opinione che riguarda invece il Milan, che è quella che mi intriga di più in questo mercato, perché non è arrivata, non sta arrivando la solita vagonata di Carneadi, anche in alcuni casi molto costosi che magari esplodono, magari no. Teo Hernandez va bene, da altre parti è andata meno bene. Stanno arrivando giocatori che comunque, cioè Tonali è dai tempi di Romagnoli che il Milan non prendeva un giocatore di questo peso specifico in rapporto a gioventù e a quanto già conosci di lui, Ricky. L'italianità che sicuramente rende questa vicenda anche più simbolica, no? Quindi questo è un tema importante. Anche qui non mancano i punti interrogativi. La situazione di Donnarumma va capita, perché chiaramente è un giocatore che ha tanto mercato e non ha un contratto particolarmente lungo davanti a sé, quindi bisogna capire che succede lì. Però io, come dicevamo ieri con Bertolucci, mi sembra che ci sia in questo momento chi è alla cloche è lucido, ha un piano, ha un progetto, si vede una linea, cosa che non sempre è successa negli ultimi anni. Sono contento che mi vedi del Milan, perché l'anno scorso quello che ho detto adesso della Roma lo dicevo del Milan, che poi facendo un girone di ritorno da seconda ha fatto sesto, quindi evidentemente era settimo, e ho preso gli insulti come li prenderò adesso dai romanisti, ma va bene, perché è quello che penso. E Milan invece quest'anno secondo me sta facendo le cose proprio per bene, come diceva Pier, con un'idea, con una linea. Il Milan è chiaro che difficilmente potrà rifare i punti fatti nel giro di ritorno addirittura per fare secondo, però sono quello abbastanza certo uno specchio deformante, Riccardo. Esatto, sicuramente, però sono sicuro invece che il Milan lotterà per il quarto posto, perché quelle certezze che ha acquisito in un momento comunque particolare le può conservare, perché Ibra è rimasto, perché i giocatori comunque sono rimasti, perché il centrocampo sta andando a migliorare tanto. Se arrivano Bakayoko oltre a Tonali, veramente parliamo di un centrocampo che aveva che si è Bennasser, che oggi diventa invece un reparto eccellente anche numericamente, perché da Biglia e Krunic a Bakayoko e Tonali è andata e ritorno in Australia come, come differenza di fuso orario, per cui io credo che il Milan stia facendo veramente tutte le cose molto molto bene. No, ma poi ti arriva Brahim Diaz, che è il prospetto intrigante su cui scommetti, però prendi anche Bakayoko, che invece è quello che già conosce, che sai quello che ti può dare, no? E non dimentichiamo che è già Leao. Io non lo scordo mai. Che appartiene ad un'altra categoria, molto costosa, però vediamo. Però secondo me la cosa che va sottolineata, scusate la banalità, è Ibra. Nel senso che se noi guardiamo la stagione del Milan l'anno scorso, che è stata una stagione nella prima parte molto complicata, ma molto complicata dal punto di vista proprio psicologico, perché la squadra andava spesso in difficoltà, faceva molta fatica, spesso a San Siro faceva fatica, a dimostrazione del fatto che c'era un ambiente che nel suo voler bene alla squadra, però di fatto creava quasi un fardello psicologico. Ecco, tutte queste cose qui, secondo me, se la stagione comincia un filo meglio e con la presenza di Ibra nello spogliatoio, possono essere completamente cambiate. Ibra è uno che ti aiuta nei momenti di difficoltà e che probabilmente, se ci fosse stato un anno fa, in quell'inizio avrebbe dato una mano. E il girone quindi, alla luce di quello che hai detto, come fa Roma a non arrivare settima? Adesso facciamo il dibattito, adesso poi mi scriverà, io starò qui, sto qui a Castelfalfi, un posto pazzesco, ci avrò Trevisani e mi andrei messaggi vocali alle 5:30 per dibattere di questa cosa. Io non ti dico che la Roma non sia settima in questo momento, ti dico che la Roma è in un gruppo di squadre, secondo me a ridosso chiaramente delle big, in questo momento non lo so, se poi ci mettiamo a giocare, è più forte l'Atalanta o la Lazio adesso, chi mettiamo terza? Non lo so, il Napoli... Cioè, Milan è comunque il dubbio, è il dubbio che dove metti terza, quarta, quinta e sesta, il dubbio è tra l'Atalanta, Lazio, Milan e Napoli. Quindi comunque hai messo settima la Roma, cioè, secondo me. No, secondo me la Roma non è terza, non è probabilmente non è neanche quarta, ma può non essere settima. E comunque da qui fino al 5 ottobre le cose possono cambiare. Sì. E ti dico un'altra cosa, se non vende nessuno, occhio al Sassuolo. Occhio al Sassuolo. Occhio al Sassuolo, sì. No, ha fatto ottavo, capito? Quindi forse non ha fatto ottavo con un crescendo della seconda parte della stagione, che significa tante cose. Questa è un'altra cosa che volevo dire a proposito del lockdown, del calcio nel lockdown. E una delle cose, delle tendenze che ho visto è che le squadre che avevano una identità tattica molto forte, molto precisa, hanno avuto un vantaggio, forse di più che durante la stagione normale con una partita a settimana. Perché secondo me quando hai un canovaccio di idee amalgamate all'interno del gruppo, un modo di giocare così standard, forse sei avvantaggiato in quella situazione lì, perché è chiaro che se giochi ogni tre giorni fai fatica a preparare anche tatticamente ogni partita. Quindi sì. E il Sassuolo questa cosa ce l'ha. Certo, quindi un campionato con degli aspetti e delle date più ravvicinate potrebbe avere un vantaggio. Quello che diceva all'inizio Riccardo, cioè è un campionato ancora più difficile da leggere anche per questi motivi rispetto a quello scorso. Vabbè ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, vi voglio bene. Adesso devo portare i ferraristi depressi al bar. Come è andato il telefono? Come è andato? Di la verità. No, non lo so. Decide Riccardo. Inizio shock. La cosa più sorprendente, lo sai qual è? Che io non mi sono mai mosso, cioè sono nel posto dell'inizio shock. Secondo me c'è qualche operatore che ce l'ha proprio personalmente con te. Ma sicuro, ti staccano sicuro, la linea. Cioè, è tutta una gag, la gente mi scrive su Twitter, cambia telefono. Io che devo fare? Ho cambiato i 14 telefoni in 7 anni e anche 3 operatori telefonici. Quanti ne hai comprati questi 14? Beh, spesso... Vabbè, qualcuno l'ho comprato, dai. Ciao ragazzi, è sempre bellissimo. Ciao Capoccio. Allora. È un pirla vero, come diciamo noi a Roma. Sono pure le vespe dentro la macchina, dai. Sempre bellissimo. Grazie ragazzi. Borsa, torniamo. Ciao. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. C'ho una canzone triste nel mio cuore. Avrei un gran da fare. Hai fuso, sì, e devo riparare. sembra di avere già capito. D'altra parte l'ora è grave, il momento è buio, serve un governo di unità nazionale. Credo che possiamo stringerci tutti a Leo Turrini, che sta vivendo uno dei momenti più difficili, credo, della sua vita, tra una finale persa con l'Inter e una Ferrari che non lascia nemmeno la speranza, vero Marino? No, la speranza per quest'anno no, la speranza per guardare avanti, per il prossimo neanche. La speranza per guardare avanti sicuramente sì, dai, non è la prima grande crisi della Ferrari, anche se il mio amico Savio mi ha scritto: questa volta non basta neanche un porca vigliac. Però è anche vero che ci furono momenti, quelli che precedettero l'arrivo di Lauda e Regazzone, e me ne può dar testimonianza il maestro, furono ugualmente bui, lo furono quelli che portarono in qualche modo all'assunzione di Schumacher, quindi all'inizio degli anni 90, è un momento in cui la globalizzazione si fa pesantemente sentire. Certamente, come in altre discipline, vincere 9 titoli consecutivi non aiuta l'esaltazione del movimento, perché ci vorrebbe, come dire, più democrazia e più tonicità da parte degli sconfitti. Anche nella Formula 1 vedere queste 10.000 vittorie consecutive scoraggia un pochino, ma l'anima rossa dell'Emilia e della Ferrari di Maranello, di cui è buon testimone Leo Turrini, credo che ancora una volta sventolerà al cielo. Vedo che... Pronto? Eccoci. Io sono Marino, in ti vuole molto bene. Cormano. Ti vuole molto bene, Marino. Hai sentito che bello. Io lo so, ringrazio Marino, ma sono in coda sulla Piero Cormano. E lei, maestro Genta, che è reduce dalle sue vacanze al billionaire, sì, mi chieda come mai sono in coda. Come mai? Perché ci sono Vettel e Leclerc davanti, ma entrambi hanno sul cruscotto delle loro macchine l'adesivo con la foto di John Elkann e di Mattia Binotto con la scritta sotto: pensa a noi, non correre. Quindi capisci che è una situazione imbarazzante. Marino ha detto delle cose bellissime, in crisi di speranza, erano le stesse cose che io e lui ci sentivamo raccontare da Nuvolari e Vardi nella seconda metà degli anni 30. È passato quasi un secolo, insomma. Io vorrei citarvi un ferrarista grande, storico, che certamente avete sentito nominare, che si chiamava Winston Churchill. Questo Winston Churchill disse: questa è l'ora più buia. Sì. Ecco, nonostante le belle parole spese dal mio maestro, io devo dire sinceramente che forse una crisi così pesante come questa, è vero, ci sono i riferimenti, i primi anni 90 e così via, ma ciò che ci deprime, dico da ferraristi, che abbiamo la sensazione non tanto di essere in mezzo al deserto, e questo potrebbe anche andare bene, ma che non ci sia nessuno in grado di indicarci una rotta, una via. Ora, io non colgo somiglianze tra Mattia Binotto e Mosè, e nemmeno John Elkann mi fa venire in mente Aronne, quindi sono profondamente depresso. Aggiungo, cari amici qui dalla coda della Piero Cormano, che siccome il destino è beffardo, siamo anche attesi, in presenza di questa realtà, da due gran premi meravigliosi, sì, Monza e il Mugello. Che non vediamo l'ora che finiscano. Però, sapete, voglio dire una cosa, no? Questo Toto Wolff, il capo della Mercedes, insopportabile, uno che veramente è simpatico come un crampo allo stomaco, sembra lì intento a piantare il chiodo sulla bara del cavallino. Ma nonostante tutto questo, siccome tu, gente, ti sei salvato pur essendo andato al billionaire, passeremo anche questa. Io sono convinto che ne verremo fuori. Sarà lunga, Il problema è cosa, ma come disse il ferrarista, non interrompere, di Winston Churchill, noi combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulle colline, combatteremo ovunque. E io mi ricordo una cena, io, Marino e Churchill, no? E Marino diceva: ma io ero venuto perché pensavo che ci fosse Lady Diana, così la citiamo perché poverina, ieri sono stati 23 anni della sua prematura scomparsa, e invece Lady Diana non venne, e allora Marino si ingollò un doppio whisky e non vi dico la fatica che feci dopo per riportarlo in albergo. Tu citi Winston Churchill, io cito Lineker. Calcio è uno sport che si gioca 11 contro 11 con un pallone, e alla fine vincono i tedeschi, Marino. I tedeschi vincevano anche con la Ferrari, amico mio, era un connubio veramente meraviglioso. Guarda, io mi affido al mio maestro per avere una risposta, perché l'uomo della provvidenza ci potrebbe essere. Ho letto da qualche parte che la Ferrari ha perso 50 cavalli. chiamate Buffalo Bill. Buffalo Bill, che quando venne in Italia Bill, si esibì a Modena. Buffalo Bill, lo sai Marino, che nel 1906 c'eravamo io e te, fece uno spettacolo in piazza Modena. Appunto. E appunto, tra gli spettatori c'era Enzo Ferrari, giovanissimo, no? Beh, era con noi. Andò a vedere Buffalo Bill e da lì nacque l'idea del cavallino, il cavallo e tutto il resto. Ma guarda, qui adesso seriamente parlando, la questione è un pochino più complessa, nel senso che se la Ferrari mancasse solo la potenza del motore, potremmo dire vabbè, si rimedia, ma è che qui la macchina è sbagliata come telaio, non ha efficienza aerodinamica. Insomma, io ve lo dico, anche domenica scorsa in Belgio, tra l'altro era passato solo un anno dalla prima meravigliosa vittoria in carriera di Carletto Leclerc, io ho visto 12 mesi dopo Leclerc sverniciato in rettilineo dall'Alfa Tauri. Ora, io voglio molto bene all'Alfa Tauri, che la ex Minardi viene dalle terre di Marino, fanno la macchina Faenza, bla bla bla, ma c'è un limite a tutto. E quando poi, scusate, il mio idolo personale, KR7, Kimi Raikkonen, che mentre CR7 la Champions non l'ha mai vinta con la Juve, ma KR7 il mondiale con la Ferrari sì, con l'Alfa Romeo, che è un trattore, ha superato e staccato Vettel sulle Ardenne. Come volete che io mi sia sentito in quel momento? Forse come quella volta, se ti ricordi Marino, io e te eravamo a quel party ufficiale con la regina Elisabetta e ci scappò detto un porca vigliacca, e la regina disse: ma questo Bartoletti mi frequenta, ma da dove viene? Io dissi: maestà, guardi che Bartoletti, insomma, è un romagnolo, è uno sanguigno e tutto. Alla fine, insomma, ci perdonarono. Sì, è una cosa veramente brutta quella che stiamo vivendo, caro Gento, ma proprio molto, molto, sì, molto tanto che abbiamo un'altra possibilità, ragazzi. Tu ricorderai, cioè? Leo, quando alla vigilia di Ferragosto del 1988 volò in cielo quel grande, sì, uomo che ha fondato quella grande azienda che risponderà sempre al nome di Enzo Ferrari. La Ferrari non era messa molto meglio di quanto sia messa adesso, eppure ti ricordi che lo successe a Monza nella gara successiva? Me lo ricordo, sì, un mese dopo, e infatti tutti i giornali italiani dell'epoca giustamente fecero il titolo "Lassù qualcuno la ama", perché incredibilmente ci fu una doppietta firmata da Berger e Alboreto. Però vedi Marino, in quel tempo la Ferrari andava molto piano, ma era la seconda, terza forza del campionato. E qui siamo a metà destra della classifica, ragazzi, ecco, bisogna fare catenaccio. In questa fase siamo veramente settimi su 10, e questo che io credo, parlo a nome dell'uomo della strada che è in coda con me qui sulla Terra Corvano, è questo che il tifoso ferrarista medio, normale, insomma, come me, non capisce. No, ma guarda, cioè, perché se dici vabbè, la Mercedes è un altro pianeta, lo sappiamo, questi qui, no, i Nibelunghi, le Valchirie, tutto, capito, Wagner, va bene, va bene, però almeno, cioè, giocatela per il terzo posto con Verstappen. No, qui siamo zona retrocessione. E pensare, Carlo, dai, lo so che arriviamo al traffico, però pensa che a Spa, e lo sa meglio di me Leo, nel 1932 esordì proprio il cavallino su una macchina che, tra l'altro, era l'Alfa Romeo, pensa un po', la famosa madre che Ferrari uccise nel 1251. È vero, il 32 debuttò questo brand prestigiosissimo. Adesso c'è questa curiosa indiscrezione secondo la quale, per protesi, il cavallino sarebbe uscito dallo scudo della Ferrari, no? Non so se sapete anche questa, che si sarebbe allontanato. E che cosa vi devo dire? Andrà meglio in futuro? Ma veramente, gente, ma come hai fatto tu andare al bilionario a tornare sano e così pimpante? Non ce n'è come non andarci, mio caro. Ah, bravo, eh. Allora, sei, io però, no, a proposito di quanto dicevate, gli umori della gente a Ferrari, io subito dopo il traffico rientreremo sentendo quali sono gli umori, perché ci sono arrivati via WhatsApp. Bartù, sei unico, meno male che ci siete, ragazzi, Dio vi benedica. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. cosa è successo con la storia del motore impossibile. Cioè la Mercedes con un anno all'altro non è che è crollata, diciamo così, verticalmente come la Ferrari. C'è qualcosa che non quadra. Ma caro dottor Genta, ma questa è la Ferrari, e se questo team non funziona, il team dei tecnici, chi comanda i tecnici, chi può potenziare il motore, Binotto, ma questi vengano cambiati. Confortiamoci con Leclerc, che è un campione, perché ieri all'inizio con una macchina scadente ha fatto delle cose fuori dal normale. Questo, se ha la macchina, è il futuro campione del mondo. La Ferrari l'unica cosa che doveva fare era l'anno sabbatico, sia per rispetto dei tifosi e soprattutto per il marchio che ha e che porta. Allora, questi alcuni dei WhatsApp vocali. Io vorrei che, poi ho un paio di domande impertinenti per Marino Bartoletti, però che in ordine alfabetico, appunto, Bartoletti e Turini facessero un discorso alla nazione dei ferraristi, che ha questo umore qui. Ma guarda, la Ferrari ci ha abituato a stupirci negli anni, risalendo anche dei momenti più bui, e sono stati tanti, anche se, come dice il mio maestro, forse così in basso non c'era mai andato. Io ci credo a questo recupero, io credo al know-how di Maranello, io credo comunque alla genialità che pervade quell'ambiente sacro, che deve essere ancora più forte dei budget, del tecnicismo e tutto quello che la Germania ci ha sempre propinato. Io ci credo, io sono fiducioso. Guarda, io non credo che possa fallire entrambi i Gran Premi italiani. Tra l'altro, prima informazione sul traffico, non mi hanno detto se stasera c'è traffico fra Bologna e Forlì, e quindi a Imola, dove speriamo non soltanto, anzi abbiamo già la certezza di avere il campionato mondiale di auto che torna dopo tanti anni, ma forse anche il campionato mondiale di ciclismo, che potrebbe arrivare, lo potremo sapere ad Horas. Ecco, che questa regione si stringa a coorte attorno al cavallino, che è romagnolo e quindi anche abbastanza permaloso, e vedrai che i tempi belli in qualche modo torneranno. Dai, ne sono assolutamente sicuro, anche perché, come ha fatto notare qualcuno, forse la Ferrari, per quanto sia un po' avvilito e dica parolacci in questo momento, ha uno dei due più forti piloti che ci sono nel lotto. Bellissimo discorso alla nazione ferrarista, Leo. Sì, allora su Leclerc sono d'accordo, è fuori discussione il suo talento enorme, è anche comprensibile che stia andando in depressione, perché poveretto è giovane, è pieno di qualità e si rende conto che guida una carriola dipinta di rosso che al massimo gli consente di battagliare con Vettel per il 13° posto. Sono meno ottimista di Marino per quanto riguarda Monza e Mugello, perché in questa situazione purtroppo in Formula 1 i miracoli non esistono. Se tu sei settimo su 10 scuderie è ben difficile supporre che nel giro di pochissimi giorni ribalti la situazione. Però fammi aggiungere, perché anche questo ha una valenza secondo me simbolica, etica, morale, molto incoraggiante, che è bello che il nostro paese, penso anche alle moto prossimamente due volte a Misano, spero, come ha detto Marino, con il mondiale di ciclismo a Imola, è bello che nel nostro paese, in un contesto generale così difficile, si riescono a proporre questi eventi. Tra l'altro domenica a Monza ci saranno 250 tra medici e infermieri come veri ospiti d'onore dell'evento, e questo è un motivo di orgoglio, credo, per noi che siamo italiani. Poi sarebbe ancora più entusiasmante se, proprio in ragione del contesto che abbiamo appena descritto, ci fosse una Ferrari decorosa. Purtroppo io sono costretto a dubitarne, ma ricordatevi cosa diceva l'ingegner Churchill: noi combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulle colline, combatteremo casa per casa. E poi questa cosa, quella volta, quando Marino lì con la regina Elisabetta contestò il whisky dicendo ma no, ma io volevo un barbone, eccetera, insomma, poi approfondiremo, perché ci fu un dialogo tra noi, Coetanei, io, Marino, la regina, anche il principe Filippo, sulla qualità del malto, ma questo è un argomento da affrontare la prossima settimana. Sì, allora io ho due domande impertinenti invece per Marino Bartoletti, che sono queste: se secondo te Sarri sta guardando il Tour de France, primo? Assolutamente sì, a tempo pieno, guarda, mancano 100 km all'arrivo della tappa, quindi immagino che in questo momento sia assolutamente concentrato ed è sereno, il momento che non ha altro da fare. La seconda è: se a Mancini, sempre secondo te, è passata l'incazzatura per quella storia di Lippi, perché prima insomma adombravo questa ipotesi, no, ricomincia a lavorare, però ma l'ho saputo dai giornali che Lippi diventava commissario tecnico. Tu un pochino lo conosci Roberto Mancini, secondo te gli è passato o no? A domanda rispondo con un giro di parole: no. Ecco. Ma gli passa? Sì, gli passa perché gli anni hanno fatto bene al mio amico Robertino, che sicuramente in gioventù sarebbe stato meno accomodante su questa situazione. Però l'esperienza serve, l'età serve, la maturità serve, la saggezza serve, l'intelligenza serve. Lui ha tutto questo, considerando che anche l'amore per la nazionale, per il quale è, come sai, lo dico da sempre, l'allenatore migliore che potessimo aspirare ad avere. Certamente questo è un mosconcino a cui faceva sicuramente a meno, ma credo anche, guarda, che sia stato soltanto un evento sfortunato. Io non credo che ci fosse stata malizia nel comportamento di Gravina, soltanto un incontro, forse andato un pochino oltre le intenzioni e comunicato con mala grazia con Lippi, ma io credo che non ci sia nessuna forma di concorrenza fra i due. Sarebbe stato carino se Mancini, come sempre è accaduto nella trasparenza dei rapporti col Presidente federale, l'avesse saputo direttamente, non attraverso noi cattivissimi giornalisti. Invece, però gli passa. No, però non gli è passata. Una cosa, scusate. Però non gli è passata ancora. No, ma per completezza di informazione, Gravina ha incontrato Lippi per conto di John Elkann per chiedergli se è disponibile a fare il team principal della Ferrari, Lippi. Quindi Mancini può stare assolutamente tranquillo. Cioè, mi sembra surreale che in questa situazione abbiamo una nazionale di calcio che ha ripreso entusiasmanti e divertirci, speriamo possa ottenere anche risultati al prossimo europeo, che qualcuno possa adombrare perplessità sulla figura del commissario tecnico. Se Lippi ci tiene, io Maranello faccio una telefonata, io lo stimo molto e potrebbe anche. Senti, ma dimmi una cosa in 8 secondi, ma no. Tu invece rispondimi sinceramente, sei contento che Conte sia rimasto all'Inter? Io assolutamente sì, penso che Conte sia un grande, lo ha dimostrato in questa stagione, quando in 8 secondi poi arrivate alla finale di Europa League, secondo in campionato, con esterni che sono Biraghi, Asamoah dispersi in una palude del Sudan, Lazzaro che si chiama così perché resuscitava gli avversari quando entrava in campo, e meno male che Conte ha rigenerato Candreva, poi dopo vi dite chi ci doveva essere su quella panchina lì, dai. No, l'importante è che non gli parta la brocca un giorno sì e un giorno Conte, no, a giorni alterni. Scusami, gente, so che devi mandare la sigla, ma Conte è come Adriano Celentano. Cioè, quando canta Celentano è perfetto, quando finisce la musica e Celentano parla, tu ti metti le mani nei capelli, hai capito? Allora Conte è la stessa cosa del Molleggiato, fatelo allenare e poi io direi a Barotta: quando hai finito di allenare la partita e tutto, ai microfoni ci vado io, hai capito? E così abbiamo risolto i problemi. Ecco fatto. Da Conte come Celentano partiremo la prossima volta col Bar Tour. Grazie ragazzi. Bravi, perché l'emozione è una voce. Vi abbraccio fortissimo. Leo Turrini, Marino Bartoletti, ovviamente Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti convocati domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti!